io seguo il mio sentiero. Non credo a quel che vedo, quindi credo a quel che è vero. E affanculo il mondo intero. Niente è più vero, nessuno è sincero. In questo mondo pensano vali zero, ma non crederli neanche per un secondo. Trasforma la tua rabbia giorno dopo giorno, ma io non mollo, lo devi tener conto. Ogni cosa in questo posto è tutto un costo, è tutto un torto. In questo mondo è tutto vuoto. Quando io canto mi sento calmo, riesco a riflettere ogni mio sbaglio. Tiriamo giù il sipario, non è un questionario. Mi sta venendo in mente un altro scenario. Tutti hanno una parte, nessuno sa bleffare. Almeno che non giochi a carte, ma nessuno sa regnare. E allora andate a cagare. Tutto pieno di falsità, e questa è la verità. Vuoi avere la libertà in sta città, in sta città. Tutto pieno di falsità, e questa è la verità. Vuoi avere la libertà in sta città, in sta città. Così vado avanti, senza stancarmi. Non uso le armi, ma posso rifarmi. In questi istanti, che durano anni, uso la parola per ammazzarti. Tutti distanti, la gente non pensa più neanche ai propri cari. Basta che abbiano i loro denari. Piangono al morto, ma pensano solamente al proprio malocco. Senza neanche un po' di rimorso, ma tanto non ha da dare nessun rimborso. Aspettano di andare via, ma non hanno un orgoglio. Basta che hanno soldi in portafoglio, ma io mi accontento di una penna e di un foglio. Per trasmettere qualcosa alla gente, tanti mi diranno sono perdente, ma comunque vado avanti indifferente. Non sarò io ad aprire la loro mente. Tutto pieno di falsità, e questa è la verità. Vuoi avere la libertà in sta città, in sta città. Tutto pieno di falsità, e questa è la verità. Vuoi avere la libertà in sta città, in sta città. E tanto i miei dubbi si sono fatti molti in questi giorni che passano veloci, che non ho voglia neanche di aprire gli occhi o di alzarmi. Per quale scopo devo svegliarmi, che ho combinato solo che danni nei miei anni passati. Non ho voglia di rifarli nei miei attimi, dialoghi, solamente discorsi analoghi. Ma adesso penso solo che i miei cavoli, niente più diavoli, niente più albi. Eppure mi sento stanco, riprendo fiato, mi metto a sedere in un tavolo a pensare. Che tante volte sapevo solo che invidiare, ma sono solo, solo come un cane. Tante volte vorrei scappare, andare lontano, ma alla fine mi troverei nel punto da capo. Eccomi qua, di nuovo da solo in mezzo a un tavolo. Tutto pieno di falsità, e questa è la verità. Vuoi avere la libertà in sta città, in sta città. Tutto pieno di falsità, e questa è la verità. Vuoi avere la libertà in sta città, in sta città. NG16 Street Light Production. Pieno di falsità. Yeah.